24 mattino. Cominciamo a separare le carriere, magistratura giudicante e magistratura inquirente. Cominciamo a fare in modo che la politica dica: voilà, magistrato, attenzione, che quando sbagli le paghi. C'è stato un referendum, abbiamo votato per la responsabilità civile del giudice. Nessuno se ne ricorda. Assistenti civici, mi candido come volontario. Mi piazzo davanti a un bar o un ristorante con i tavolini e divento il più ferreo difensore della mascherina e del distanziamento sociale. Talmente ferreo che il proprietario del bar, del ristorante, mi allungherà 50 euro per andare a fare il mio lavoro così attento da un'altra parte. Non male, non male, non male. L'assistente civico col pizzo, eh? Vabbè, vabbè, va bene. Sul tema della magistratura invece, ecco, quello è un punto serio, importante. Ci torneremo dopo, alle 8:20 con Maria Latella, con i nostri ospiti. Sarà il nostro ospite l'ex procuratore di Firenze, Toni, che ha scritto un libro dopo aver lasciato con 2 anni di anticipo la magistratura, esattamente perché a questo gioco non voleva stare più, così dice. Sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, e poi a partire dalle 8:20 l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Sì, parleremo anche di assistenti civici, ovviamente lo faremo con il sottosegretario all'interno. Siamo anche in diretta su Facebook. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:20 circa, poco meno, ed è martedì 26 maggio. Ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Molte aperture dedicate alla vicenda, appunto, di questi assistenti civici, con il manifesto che apre con una foto del ministro Boccia. Civico e baro è il titolo un po' cattivo del manifesto. La maggioranza contro la proposta del ministro Boccia sull'assunzione di 60.000 guardie civiche, gelide, del ministro Lamorgese e Catalfo. Il compromesso: gli assistenti si occuperanno solo di solidarietà sociale e quindi non faranno più i distanziatori o i controllori della movida. Anche la Repubblica parla di questo dietro front del governo sulla guardia civica, anche se in prima pagina si dedica spazio anche alla questione dei magistrati. Il caso Palamara riapre la stagione dei ricatti, e qua c'è un commento di Carlo Bonini che parla dell'onore perduto della magistratura. Il Corriere della Sera titola sul governo che litiga sulla movida, anche qua appunto i famosi assistenti civici, e a centropagina invece ci si dedica ai dati sui nuovi positivi, mai così pochi da fine febbraio, scrivono Mariolina Lossa, Iossa e Simona Ravizza. Il Quotidiano Nazionale: c'è la prova, il virus è più debole, svolta a Brescia, il presidente dei virologi dice che la potenza si è ridotta e hanno isolato una variante buona del Covid. Intanto dall'autopsia arriva la chiave per la cura, e poi si parla ovviamente anche del governo diviso sui volontari anti-movida. La Stampa invece titola su un sondaggio di Euromedia Research: 2 cittadini su 3 bocciano l'Unione Europea, un anno dall'Europea la Lega crolla di 10 punti, ma il titolo forte è sulla fase 2 nella quale in Italia cresce la sfiducia, si viene tagliato il consenso del governo appunto in questa fase 2, si passa da un 48% per Conte a un 44% adesso, da un 48% il 25 marzo, insomma 2 mesi fa, a un 44% adesso. Si parla del calo dei consensi della Lega e anche della caduta dei consensi per l'esecutivo, che è intorno al 35%. Si parla anche della possibilità, c'è anche un'intervista al sociologo Marzio Barbagli che parla, insomma, del rischio rivolte, del rischio di tensioni sociali. Il Messaggero sceglie invece di dedicare l'apertura al nord-ovest in bilico sulle riaperture. un vertice del Presidente del Consiglio e Speranza sulla mobilità dal 3, Lombardia e Piemonte a più alto rischio contagio, anche qua si dà conto della frenata dei positivi e della lite sugli assistenti civici che appunto non avranno compiti di polizia. Il messaggero ci porta anche sulla scuola e ci fa sapere che si andrà in classe a settembre, ma per i licei gran parte sarà online. La magistratura è al centro della prima pagina, la questione della magistratura è al centro, anzi no, aspettate, visto che siamo sul tema Covid, fatemi citare l'apertura del Fatto Quotidiano, è un'intervista al commissario... Il commissario agli approvvigionamenti, come lo vogliamo chiamare, Domenico Arcuri, ci prepariamo al ritorno del virus, eravamo disarmati, ora non lo siamo più, è un'intervista realizzata da Fabrizio D'Esposito, poi magari ve ne pescherò qualche tratto nel corso della rassegna stampa. Il giornale apre con un'intervista al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che di questi temi, come ricorderete, ha parlato anche con noi l'altro giorno, era nostro ospite. Andavo bene solo se attaccavo Berlusconi, De Magistris si confessa, l'ex PM svela il complotto fatto fuori da Napolitano e dalle toghe rosse quando ha iniziato ad indagare a sinistra, e poi c'è la questione del processo a Salvini, 5 Stelle pentiti, c'è aria di retromarcia. A centropagina la richiesta di far dimettere il ministro Boccia, cacciate Boccia, guardie civiche, attacchi al nord, un disastro. Il Soviet di Giuseppi è il titolo della Verità, l'idea delle ronde di spia antimovida spacca il governo, e un editoriale di Maurizio Belpietro sul tema della giustizia, sullo scandalo Toghe, dice Belpietro, Mattarella ha il dovere di parlare. E l'Avvenire torna su un tema che ha tirato fuori lo stesso quotidiano, il tema di Malta che rispedisce i barconi dei migranti in acque territoriali italiane, Malta non spiega, è il titolo, la Morgese chiede conto del dirottamento dei profughi ma la risposta è vaga. E infine il Sole 24 Ore, l'apertura su edilizia e turismo a rischio fallimento, e sugli assistenti civici il nuovo scontro nella maggioranza. Ci sono molti altri elementi sul Sole 24 Ore, a partire dal tema di Zoom, l'app per le conference call che molti di noi hanno imparato a usare in questo periodo, vale più di General Motors, nel senso che appunto la capitalizzazione a Wall Street è cresciuta esponenzialmente nell'ultimo periodo. Ci sono un po' di temi, di dossier sul tavolo, dei quali parla il Sole 24 Ore, Atlantia sicuramente, l'ex Silva e poi Alitalia, sul quale c'è un nuovo pezzo che ci racconta quanto ci abbiamo speso fino adesso. Iniziamo da qualcosa, laterale, nemmeno troppo a dire il vero, e però sono dei temi che possono aiutare a innescare un po' di dibattito su quello che riguarda la vita dei nostri figli, dei ragazzi. Ne troviamo tracce tanto sul Corriere della Sera quanto sulla Repubblica. E il tema che viene affrontato da Antonio Polito in una pagina intera, che è pagina 19 del Corriere della Sera, è questo tema del salvataggio dell'ultimo giorno di scuola. Insomma, questo ultimo giorno di scuola come una sorta di rito di passaggio, di saluto dei propri compagni di classe, soprattutto per chi l'anno prossimo non li rivedrà. Le quinte elementari, le terze medie, gli ultimi anni di liceo, anche se per questi ovviamente è un po' più facile incontrarsi. Salviamo l'ultimo giorno di scuola, è il titolo appunto dell'editoriale, del commento di Antonio Polito, che inizia con una storia, un click sul tasto Leave Meeting di Zoom. Così Mary, mamma di Riccardo, immagina l'ultimo giorno di scuola di suo figlio, uscito di classe un anonimo giovedì di marzo, per non tornare mai più fra i compagni di 5 anni di elementari. Si avvicina il fatidico momento di giugno nel quale ogni anno, tra l'eccitazione per l'estate incipiente, la commozione per la fine dell'infanzia, quasi 500.000 di bambini si costruiscono le immagini del loro primo passato, un album di ricordi fatto di volti di amici che forse non incontreranno mai più nella vita, o forse sì, da grandi, come in quei film dove all'improvviso uno ti compare davanti e ti dice: ehi, ti ricordi di me? Andavamo a scuola insieme. Quel momento quest'anno non ci sarà, o al massimo ci sarà su Zoom. Leave Meeting, i D 8381475135. Per tutta la vita, Riccardo, con queste due parole ricorderai di aver concluso la tua scuola primaria. E allora c'è questa riflessione che, come dicevamo, è partita dal sindaco di Firenze Nardella, che adesso trova eco nel commento di Polito. Tutto questo danno incalcolabile, ma forse rimediabile, almeno simbolicamente, se non solo si consentisse, non dico ovunque, non dico per tutti, anche solo una classe per città, rispettando tutte le regole sanitarie, magari all'aperto, in un cortile o in un parco, a un gruppo di bambini italiani di dire addio ai loro compagni, per segnare la fine di un ciclo e l'inizio di un altro. C'è un membro del governo, la viceministra Ascani, che dice che è possibile. Perché non ci proviamo almeno? Varrebbe quanto, anche più, di un sorvolo delle frecce tricolori a dare fiducia e a testimoniare ostinazione. E ancora, il tema dei giovani, dei ragazzi e di questo rapporto con la tecnologia che si fa sempre più intenso, sempre più intimo, anche non solo quello dei ragazzi, parliamoci chiaro, anche il nostro, ricorre perché torna a pagina 23 della Repubblica con Cristina Nadotti, che va sul tema di quanto le persone, i ragazzi in particolare, stanno davanti a uno schermo in questo periodo, anche la mattina, anche a lungo. Racconta Bruno, 15 anni, al secondo anno dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia. Di solito vado a letto intorno alle 11, ma quando la scuola ha chiuso ho cominciato a fare le 2 del mattino per giocare online e per chiacchierare con gli amici. Una notte ci siamo accorti che erano quasi le 4 e ci siamo detti meglio chiudere. È uno spazio tutto nostro in cui ci sentiamo più liberi. I genitori tollerano. C'è un patto, dice Bruno, se la mattina mi alzo in orario per seguire le lezioni e vado bene a scuola, non è un problema. Altre madri, raccoglie voci di altre madri, Cristina Nadotti, che raccontano di figli che hanno invertito il giorno e con la notte, e un'opinione di Federico Tonioni, psichiatra responsabile del centro pediatrico per la dipendenza da internet al Policlinico Gemelli di Roma, che dice: non drammatizzerei un fenomeno che ha riguardato anche noi adulti. Il coronavirus è stato un evento unico e inatteso. È normale che ciascuno abbia trovato il suo modo di viverlo. Per tutti è stato fondamentale trovare un momento di solitudine. Per gli adolescenti, vivere di notte è servito a ritrovare autonomia e indipendenza. E quindi la vede positivamente. Non è male, questa la posizione del medico. Non li colpevolizzerei, anche perché sono davvero colpito dal modo nel quale si sono dimostrati responsabili nella maggior parte dei casi. E anche questo è un fronte interessante. Così come, a proposito di tutta la questione degli assistenti civici e di come ci comportiamo noi fuori, c'è, ogni tanto sui giornali si trova, il consueto florilegio di multe assurde. Questa volta è La Stampa a portarci a pagina 8 con Nicola Pinna su una raccolta, no, delle cose migliori. Il quarantenne di Cernusco sul Naviglio non è riuscito a trattenere lo stupore e ha fatto la domanda più scontata che gli potesse venire in mente, proprio quella che ha fatto imbestialire i vigili urbani: scusate, ma è una barzelletta? E invece no, era tutto vero. Gli agenti lo hanno multato perché fumava senza tenere la mascherina sul volto. No, guardate, no, non è male. Mi spiegate voi come posso tenere in bocca la sigaretta se indosso la mascherina? Esiste un divieto di fumo all'aperto, gli ha detto. Lui, che in quel momento stava rientrando a casa, a dirla tutta rispettava scrupolosamente le regole che consentivano gli spostamenti in tempo di quarantena. Ma i vigili non gli hanno perdonato la leggerezza sulla mascherina. In Lombardia è obbligatorio indossarla sempre e non sono ammesse eccezioni. Proprio per questo dobbiamo farle la multa. 400 euro e via. Pagare. E ce ne sono altre, no, di insomma forze dell'ordine che a volte sono state troppo occhiute, per così dire. Di certo ci sarà da discutere sul caso di un anziano di Ospitaletto in provincia di Brescia che è stato sorpreso dai carabinieri mentre riposava su una panchina di fronte a un supermercato. Si stava solo riposando, un attimo di pausa mentre faceva la fila per entrare, raccontano gli avvocati. Un uomo di una certa età non ha le forze per stare tanto tempo in piedi in attesa di poter fare la spesa. Sarebbe bastato il buon senso per evitargli la sanzione. Ma la legge non ammette eccezioni. E ancora, un barista di Bagnolo Cremasco, il bar chiuso, non ha soldi, non sa come fare, e quindi cosa fa? Va a pranzo dai suoi genitori. Per fortuna ci sono loro che mi hanno offerto il pranzo e la cena, ma i poliziotti non si sono fatti intenerire. Perché? Perché tra la casa del barista e dei genitori passa il confine tra due comuni. Sono 400 metri, ma tecnicamente sono due comuni diversi. E quindi cosa fa la municipale? Lo multa. E ancora, questo è un caso, niente da fare, per un 35enne di Torino che si è beccato un'altra multa per non aver voluto correre il rischio di violare il divieto di allontanarsi da casa più di 200 metri. Perché? Perché aveva lasciato l'auto a 300 metri di distanza. Non voleva fare 300 metri, voleva rispettare rigidamente le regole. Nel frattempo è spuntato un divieto di sosta temporaneo per il rifacimento dell'asfalto. Morale, l'hanno multato, gli hanno portato via la macchina e dovrà pagare tutto. Ma il peggio, se permettete, è in una storia che viene raccontata con una lettera al direttore della stampa, che è il racconto di un uomo. Il giorno di Pasquetta sono stato multato perché insieme a mia moglie ho portato mio figlio disabile a fare due passi. Lunedì 13 aprile, indossando mascherine e guanti, ha problemi di postura e di vista, dobbiamo sorreggerlo in due, dovevamo uscire per forza in tre. Siamo andati a 200 metri da casa, in un luogo dove il figlio poteva camminare senza recare disagi a nessuno. Due pattuglie della municipale si avvicinano. Non era la prima volta che venivamo fermati, è sempre bastato uno sguardo per capire la situazione, ma questa volta no. E il capo di una delle due pattuglie gli dice: se suo figlio è disabile, sono problemi suoi. Davanti agli sguardi increduli degli altri agenti, non ho mai ricevuto in tutta la mia vita una tale offesa. Non ho alzato la voce, ho solo provato ad appellarmi al buon senso, ma è stato inutile. E adesso, ovviamente, scatterà un ricorso. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Ma perché si vuole rimpiazzare il termine movida? Il termine movida ha una storia bellissima, è la liberazione della società spagnola dopo Franco, che ha ritrovato la bellezza dell'uscire, di stare fuori, il chiacchierare insieme. Il problema delle correnti, caro Simone, qui c'è il problema che la magistratura ancora una volta in questo paese si scaglia contro il leader di un partito, che sia Salvini o che sia un altro, questa è di una gravità assoluta. Beh, come al solito l'arte di chi non fa niente è quella di criticare chi fa, come da sempre. Questa la questione degli assistenti civici, in realtà non è un'iniziativa partita dal governo, ma è semplicemente una risposta alle richieste di tutti i comuni che non sanno come gestire il problema degli assembramenti. In alternativa cosa c'era? Assumere 800 vigili per ogni comune? Ma qua il tema è se metti in strada la gente impreparata, Tema mi pare questo, non solamente il fatto di prendere queste 60.000 persone, insomma un po' come la mette Massimo Gramellini nel suo pezzo di questa mattina, il suo caffè di questa mattina sul Corriere della Sera, che si intitola La ronda del dispiacere, che insomma dice un po' questo, no? Qualora il ministro Boccia, che porta nel cognome il destino di certe sue intuizioni, vuole investire i disoccupati che percepiscono un reddito di cittadinanza nel ruolo di censori esistenziali, avrebbero costoro l'incarico di sgridare chi per strada abbassa la mascherina o si avvicina eccessivamente a qualche non congiunto. Qualora il redarguito non si piegasse alla loro invadenza, gli improvvisati questurini dovrebbero riportarne il nome all'autorità. L'idea di consegnare un potere piccolo ma urticante a persone sprovviste delle competenze per esercitarlo non è nuova nelle dittature. Metti delle mostrine su una spalla qualsiasi e avrai un apostolo zelante dell'ordine. La memoria va ai capi caseggiato fascisti e sovietici, che avevano il compito di garantire un controllo capillare delle vite altrui, ed essendo statisticamente inevitabile che tra i controllori si annidino anche individui frustrati e rancorosi, Un governo che li mettesse nelle condizioni di sentirsi importanti finirebbe per legittimare i ricatti e le meschinità. Non dico che il mite Boccia si auguri queste conseguenze, scrive Gramellini, ma il fatto che nel concepire la proposta non le abbia soppesate lascia ancora più perplessi. Voglio sperare che il parto di uno Stato poliziesco non vedrà mai la luce, ma nel caso mi premurerei di suggerire agli assistenti civici di rispettare per primi il distanziamento sociale, girandomi alla larga. Così Gramellini. Sulla questione della magistratura ci arriviamo tra un attimo, ci sono molte cose sui giornali. Qualcuno di voi invece su WhatsApp ci ha chiesto notizie dei Navigator a proposito di tutto questo. Ebbene, troviamo molti elementi sui quotidiani di oggi, a partire dal Sole 24 Ore. A pagina 5 abbiamo un pezzo di Giorgio Pogliotti che firma tra l'altro insieme a Barbara Fiammeri la cronaca di tutta questa vicenda degli assistenti civici. È un pezzo nel quale ci racconta un po' che cosa hanno fatto i Navigator in questi tre mesi. In tre mesi di lockdown, con i centri per l'impiego chiusi, i Navigator hanno lavorato da remoto, utilizzando lo smartphone e i tablet fornitogli da ANPAL Servizi, soprattutto per gestire la presa in carico dei 966.000 percettori del reddito di cittadinanza considerati occupabili e tenuti alla sottoscrizione del patto del lavoro. Il patto del lavoro, i patti di servizio sono stati sottoscritti complessivamente finora da 316.000 persone, e però in cauda venenum Giorgio Pogliotti alla fine del pezzo ci racconta questo. Cosa doveva succedere con ANPAL Servizi, con i Navigator, insomma questo piano per il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto comprendere la realizzazione di un sistema unico, appunto, per poter trovare offerte di lavoro per tutti. Ebbene, nonostante circa 80 milioni tra impegnati e spesi da ANPAL, ancora manca un sistema informativo unitario per condividere a livello nazionale le informazioni necessarie e per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Insomma, poco si è mosso anche rispetto alla legislatura precedente sull'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che doveva essere appunto abbastanza semplificata a livello informatico da ANPAL Servizi. Ci comunica nel frattempo a pagina 7 il Quotidiano Nazionale che molti dei Navigator, sostiene Claudia Marin, che hanno ottenuto anche i 600 euro di bonus. Attenzione, l'emergenza coronavirus ha devastato i redditi presenti e futuri di milioni di lavoratori autonomi e dipendenti, ma per i 3.000 Navigator si sta rivelando un colpo di fortuna senza precedenti. Non solo si sono ritrovati assunti in piena pandemia con contratto di co-co-co, con compensi da 28.000 euro l'anno, senza neanche avere l'incombenza di doversi dare da fare per guadagnarseli, visto che di fatto le attività sono state bloccate, ma da quel che risulta si sono presentati in gran parte anche alla cassa dell'INPS per chiedere i 600 euro di bonus per l'emergenza Covid, previsti anche per i collaboratori coordinati. Hanno trovato il modo, tra l'altro, di protestare per mantenere, e non si sa se ci siano riusciti, anche il rimborso spese mensile di 300 euro previsto a titolo forfettario per spostamenti e trasferte, che ovviamente sono bloccati a causa Covid. Ma come se non bastasse, appunto, sostengono fonti bene informate, dice Claudia Marin, che avrebbero chiesto e ottenuto anche il bonus di 600 euro previsto come indennizzo dal decreto Cura Italia per le partite IVA e i co-co-co. Cosa ancora da queste cronache di Covid? Poi vi voglio portare su tutta la questione giustizia dopo il traffico. Dunque, c'è questa intervista che vi segnalavo già prima di Maria Rosa Tomasello al sociologo, uno dei decani della sociologia italiana, Marzio Barbagli, il quale esprime la preoccupazione: troppi svantaggiati, ora la collera sociale rischia di esplodere. Qual è la questione? Il problema è il confronto che la gente fa nel momento nel quale vengono dati soldi e vantaggi. Ci sono continui confronti fra gruppi che non si sentono sufficientemente rappresentati. Perché a lui sì e a me no? L'insoddisfazione nasce da questo e da condizioni oggettive. Far fronte ai bisogni della popolazione è complicato. Una gran quantità di denaro è stata investita per sostenere gli strati svantaggiati della popolazione nei prossimi mesi, ma c'è sempre il rischio di commettere errori nella distribuzione. E questo, secondo secondo Barbagli, può condurre a delle tensioni sociali che vengono esplicate dalla stampa, tra l'altro, con questo, in questo sondaggio nel quale si racconta del, appunto del, del calo di fiducia nei confronti del governo. Abbiamo parlato molto del lato governativo, c'è un ultimo elemento sul quale vi voglio portare, che è l'elemento regionale, pagina 7 del quotidiano La Repubblica, dopo lo scivolone sull'indice R con T del assessore regionale alla sanità lombardo Gallera. Ebbene, qua si parla in un retroscena di Andrea Montanari su Repubblica, appunto a pagina 7, di un Gallera commissariato dopo l'ultimo scivolone. Giulio Gallera, assessore lombardo alla sanità, finisce nuovamente nel mirino del centrodestra dopo l'ultima gaffe sull'indice dei contagi. Ora si fa strada l'ipotesi del rimpasto di giunta, non subito ma forse prima dell'estate, e anche il leader della Lega Matteo Salvini ieri avrebbe dato il suo via libera. Intanto Gallera sarà affiancato, attenzione, attenzione, da una task force anti-Covid-19. Traffico, va. Ma vogliamo parlare di Atlantia? A Genova siamo di nuovo ostaggi dei cantieri in autostrada, infiniti, improvvisi. Hanno appena chiuso uno dei caselli più importanti senza preavviso, di punto in bianco hanno deciso che una galleria era pericolosa e l'hanno chiuso. Ho una figlia di 11 anni che frequenta la quinta elementare, e lei e le sue compagne non aspettavano altro di potersi trovare l'ultimo giorno per fare il tradizionale lancio dei palloncini e poter stare insieme per l'ultima volta prima di qualcuno ritrovarsi l'anno dopo e qualcun altro invece non vedersi. Magistratura eletta dal popolo così come negli Stati Uniti. Eh sì, c'è qualcuno che lancia anche quest'idea. Sulla questione di autostrade, allora qua il tema, ovviamente il dibattito in queste ore è sul prestito garantito dallo Stato per Atlantia. C'è l'ipotesi, lo avete sentito in GR24, ne trovate traccia ovviamente sul Sole 24 Ore, che, lo dice il ministro Gualtieri, che addirittura insomma lo Stato possa entrare, insomma, no, nella gestione delle autostrade. Però dico all'ascoltatore, però non, se, cioè, se non ci sono le manutenzioni, giustamente ci si lamenta perché si dice che le strade, le autostrade diventano pericolose. Non possiamo, neanche possiamo lamentarci dei cantieri. I cantieri, se servono per quelle manutenzioni che vengono richieste, ci sono, e giustamente, ed è giusto che ci debbano essere. Sulle gallerie, tra l'altro, come ricorderete, ce ne siamo occupati spesso. C'è un problema anche di aderenza alla normativa europea. Prima di andare alla giustizia, molto rapidamente vi segnalo che non potete perdere i pezzi del Sole 24 Ore su Atlantia, sull'ex Silva e soprattutto sulla mitologica Alitalia, perché a pagina 8 il nostro Gianni Dragoni ci porta ancora sulle vicende della compagnia di bandiera. Perché? Perché chiarisce che in questo dossier di crisi, come sapete, abbiamo sganciato altri 3 miliardi di euro alla nuova Alitalia. Per fare cosa, chiede Dragoni? Nessuno lo sa. Il decreto legge rilancio che stanzia questa somma senza precedenti dice: la società redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta che include strategie strutturali di prodotto. Il governo riconosce che non c'è un piano. Intanto mette sul piatto 3 miliardi, al buio. Forse si vuole fare la guerra a Lufthansa appena salvata con 9 miliardi, o a British Airways, o a Air France, KLM, o a Ryanair, chi lo sa. La domanda andrebbe girata all'amministratore delegato della NewCo Alitalia, ma non è ancora stato nominato, perché ci sono contrasti tra il MEF, altri ambienti del PD e il Movimento 5 Stelle. Morale, chiude Dragoni, insomma, in un pezzo nel quale ci ricorda un po' come stanno le cose. In totale all'Italia è costata 12 miliardi e 615 milioni, cioè 210 euro a testa per ogni italiano, neonati compresi. E ora veniamo al capitolo della magistratura, che si compone, guardate, di tantissime cose. Come nasce la vicenda, ve lo ricordo ancora una volta, ci sono queste chat delle quali ha pubblicato alcuni estratti il quotidiano La Verità. Sono le chat dell'ex presidente dell'ANM Palamara, che è sotto inchiesta, sotto indagine. Da queste chat emergono una serie di cose: innanzitutto una sorta di mercanteggiamento per i posti nelle procure, e poi c'è anche il tema di Salvini e di quello che viene considerato un attacco al leader della Lega. In una di queste chat un procuratore scrive a Palamara dicendo: guarda che la procura di Agrigento sbaglia, Salvini in realtà ha ragione. E dall'altro Palamara che risponde: sì, ma bisogna combatterlo e bisogna contrastarlo. E quindi c'è un versante magistratura, puro e semplice, e poi c'è un versante politico. Il versante politico arriva un po' a uno dei suoi snodi centrali oggi, che è il giorno nel quale la Giunta per le autorizzazioni voterà sul processo a Salvini per la vicenda di Open Arms, ed è un voto in bilico perché ci sono un ex 5 Stelle come Giarrusso e un attuale 5 Stelle che potrebbero votare appunto contro il processo, e quindi Salvini potrebbe non andare a processo. E qua Lina Palmerini sul Sole 24 Ore ci porta un po' sull'aspetto politico della questione e ci racconta come i processi e il caso Lombardia diventano le nuove armi polemiche di Salvini per riscattarsi da quel calo dei sondaggi che ormai segna quasi 10 punti in meno rispetto all'exploit delle europee di un anno fa. Sul caso Gregoretti l'udienza preliminare è slitta al 3 ottobre, mentre oggi la giunta del Senato si esprimerà sulla vicenda della nave Open Arms, il cui esito si gioca sul filo di un voto. È chiaro che dopo le intercettazioni pubblicate dalla Verità, il capo leghista ha un argomento contro i giudici, anche se Palamara è sotto processo, e cerca di cavalcarlo per ridare smalto a una leadership che in questa fase sembra non bucare l'attenzione popolare. Il punto è quanto possono interessare le vicende processuali di Salvini in questo momento, nel quale gli italiani sono concentrati su come sbarcare il lunario. Di certo c'è una questione aperta, così come è aperta ovviamente la questione della Lombardia, e questo è un pezzo del punto politico. Poi trovate traccia ovviamente di quello che potrebbe succedere oggi in giunta un po' su tutti i quotidiani. Come si diceva, poi c'è tutta la parte invece che riguarda la magistratura, e qua trovate un florilegio di interviste sui quotidiani, a partire da, per esempio, Franco Roberti, ex procuratore antimafia, adesso è europarlamentare del Partito Democratico. Lascio giudicare a voi, perché insomma qua leggiamo non solo Roberti, molti ex magistrati che parlano di questa spartizione, no, come se fosse una cosa che emerge solamente adesso. Comunque così è. Basta carriere e stop alle clientele, dice Franco Roberti, intervistato da Alessandro Farrugia, sul quotidiano nazionale. Serve una riforma per non assistere al più spettacolo, allo spettacolo più osceno visto in quest'ultimo anno. Basta correnti degenerate, basta capibastone, basta politici che intrallazzano con i capibastone. E quindi ben venga la riforma del meccanismo di elezione del CSM, ma questo non basta. Serve una riforma più radicale, vanno abolite addirittura le carriere dei magistrati, perché è il modo migliore, dice Roberti, per riportare le correnti della magistratura al loro ruolo originario, sottraendo loro ogni influenza sulla scelta dei capi degli uffici. Le correnti sono andate degenerando, trasformandosi da luoghi di elaborazione del pensiero sulla giustizia a luoghi di gestione del potere clientelare. Legnini, l'ex vicepresidente del CSM, intervistato da Repubblica a pagina 15 da Giuliano Foschini, che dice: Palamara mi convinse che era la vittima di una congiura, ho sbagliato a dargli credito. Gran parte delle intercettazioni si riferiscono a un periodo successivo di quando io ero vicepresidente del CSM. Quelle relative alla mia consiliatura riguardano chat e messaggi tra consiglieri e magistrati che io non potevo conoscere. Sono sorpreso per certe espressioni, dice Legnini. E invece la prende un po', diciamo, un po' più tosta sul Foglio, intervistato da Claudio Cerasa, un altro ex vicepresidente del CSM, Michele Vietti, contro gli ipocriti della giustizia è il titolo. E guardate, già questo, no, dà un po' il segnale di come può virare il dibattito. La prima questione, dice Vietti, è che la stessa politica che oggi chiede ai magistrati un maggiore decoro dovrebbe chiedersi per quale ragione un pezzo di magistratura si sente come onnipotente e legittimata a fare qualsiasi cosa? E la risposta a questa domanda è purtroppo semplice. Da anni la politica della non responsabilità fa di tutto per offrire alla magistratura più poteri di quelli di cui ha bisogno e per invocare l'intervento della magistratura su ogni aspetto dello scibile umano. GR24, ci ritroviamo e ripartiamo proprio da questo con Maria Latelle, con i nostri ospiti.